363 vitello tonnato. Prendete un chilogrammo di vitella di latte nella coscia o nel culaccio, tutto unito e senza osso. Levategli le pellettiche e il grasso, poi steccatelo con due acciughe. Queste lavatele e apritele in due, levate loro la spina e tagliatele per traverso, facendone in tutto 8 pezzi. Legate la carne non molto stretta e mettetela a bollire per un'ora e mezzo in tanta acqua che vi stia sommersa e in cui avete messo un quarto di cipolla steccata con due chiodi di garofani, una foglia d'alloro, sedano, carota e prezzemolo. L'acqua salatela generosamente e aspettate che bolla per gettarvi la carne. Dopo cotta scioglietela, asciugatela e ghiaccia che sia, tagliatela a fette sottili e tenetela in infusione un giorno o due in un vaso stretto nella seguente salsa in quantità sufficiente da ricoprirla. Pestate grammi 100 di tonno sott'olio e due acciughe. Disfateli bene con la lama di un coltello, o meglio passateli dall'ostaccio aggiungendo olio fine in abbondanza, a poco per volta, e l'agro di un limone o anche più, in modo che la salsa riesca liquida. Per ultimo mescolateci un pugnello di capperi spremuti dall'aceto. Servite il vitello tonnato con la sua salsa e con spicchi di limone. Il brodo, colatelo e servitevene per un risotto.